italiani in minoranza, odio in abbondanza, fanno resistenza mentre la mattanza avanza. Sogni in una stanza, nutrono coscienza della maggioranza, possiamo anche stare senza. Strani in minoranza, nutrono speranza di figli migliori come mamma in gravidanza, che sentono l'essenza del nuovo che avanza, che nasce dal passato e che si chiama resistenza. I tempi si ripetono e non cambiano, a cambiare sono solamente i nomi degli infami che si alternano e che strisciano su scale di potere. Babilonia la rinsaldano e nascono fiori che a loro fanno paura ed immediatamente schiacciano e calpestano chi vedono. Abiti sporchi che si cambiano e radici mai stirpate che si evolvono nella storia. Col cappuccio, con la giacca e la cravatta è sempre un boia. Pensieri rinchiusi in cervelli da esclusi e bambini che nascono di già coi pugni chiusi. Figli di madri lontane da ogni schema, figli di padri banditi dal sistema, lontani dalla chiesa, allergici allo Stato, battezzati come figli del proletariato, che fanno resistenza alla loro strafottenza e ci si dissanti che coscienza. Invece rimanare sbirre senza intelligenza, allora fuoco sul loro sporco gioco. Limitarsi a un San Pietrino sopra un cellerino è troppo poco, allora fiamme pure sulle caserme. Davanti ai crimini di Stato non si può restare inerme. La strada impolverata che ci fa da ring, contro i mercenari siamo tutti fedahin. Caricano pure per un semplice sit-in, ma io sfodero rime e rabbia sul ragamuffin. Qua siamo strani in minoranza, abbiamo odio in abbondanza, facciamo resistenza mentre la mattanza avanza. Sogni in una stanza che nutrono coscienza della maggioranza, possiamo anche stare senza. Strani in minoranza nutrono speranza di figli migliori come mamma in gravidanza, che sentono l'essenza del nuovo che avanza, che nasce dal passato e che si chiama resistenza.